Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 179 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.caccialfotone.it. Nella puntata odierna del fotone ci occuperemo di astronomia, cosmologia e neutrini. Sicuramente una volta nella vostra vita avrete sentito parlare di neutrini. In realtà non esiste un solo tipo di neutrini, ma ne esistono ben tre di neutrini: il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tau. Di questi neutrini, ma soprattutto della loro massa, ne parleremo con la dottoressa Carmelita Carbone del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna. Buongiorno Carmelita. Buongiorno. Carmelita, con te parleremo di un preprint pubblicato da pochi giorni su Archive. In questo preprint si parla della Cosmic Neutrino Background e in particolar modo si parla di due strategie spettroscopiche per l'analisi dei neutrini, la slitless e la multislit. A te la parola per introdurre in 100 parole che cosa sarà l'argomento di questa trasmissione. Sì, grazie Fabio. E questo articolo si cerca di valutare se future survey di galassie potranno in certo modo misurare con grande accuratezza la massa totale dei neutrini cosmologici e raggiungere anche il limite minimo previsto dalla teoria delle particelle, dalla teoria del modello standard, che è quello di 0.5 electron volt. E in particolare queste survey sono state sviluppate, progettate per misurare la cosiddetta equazione di stato della dark energy. Potranno darci tantissime informazioni sui vari parametri cosmologici e in particolare sui vari costituenti dell'universo, e in questo articolo appunto noi ci focalizziamo sulla massa dei neutrini cosmologici, che in realtà per ora non sono ancora stati osservati, ma che sono predetti dalla teoria del Big Bang. Perfetto Carmelita, ti ringrazio per la sintesi. A questo punto ci andiamo ad ascoltare un primo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione cercheremo di spiegare che cosa sono i neutrini, cercheremo di spiegarli nel dettaglio, mentre nella seconda parte della trasmissione centreremo la nostra attenzione espressamente sul contenuto del paper pubblicato su Archive. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. On your fingernails, so trivial. sulle note di Trivial Details dei Double Talk che torniamo in studio qui a Caccia Fotone nella 179esima puntata di Caccia Fotone. In questa trasmissione ci stiamo occupando di astronomia, di cosmologia, ma in particolar modo ci stiamo occupando di neutrini e ne stiamo parlando con la dottoressa Carmelita Carbone del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna. Ecco, abbiamo al telefono, o meglio in collegamento via Skype, la dottoressa Carbone, perché la dottoressa Carbone è primo autore di un preprint pubblicato qualche giorno fa su Archive in cui si analizzano due strategie spettroscopiche per l'analisi dei neutrini, o meglio ancora per identificare la massa dei neutrini cosmici, e in particolare queste due strategie spettroscopiche si chiamano slitless e multislit. Di queste strategie e in particolare del contenuto del paper ce ne occuperemo nella seconda parte della trasmissione. Nella prima parte andiamo ad analizzare i concetti generali che sono dietro al paper. E quindi la prima domanda che vi voglio fare, Carmelita, è che cosa sono i neutrini e soprattutto quando sboccia l'idea in fisica del neutrino? Ecco, il concetto di neutrino è stato postulato per la prima volta da Pauli nel 1930 per spiegare la conservazione dell'energia in un particolare decadimento radioattivo detto decadimento beta, dove un nucleo atomico decade in un protone, un elettrone ed un antineutrino. Però poi è stato il nostro grande Enrico Fermi nel 1934 che ha coniato il termine neutrino e ha spiegato teoricamente la fisica del decadimento beta. Quindi diciamo è stato postulato da Pauli, ma poi è stato Fermi a dare il nome alla particella e a spiegare fisicamente cosa accade nel fenomeno che coinvolge appunto i neutrini. E poi ovviamente, Carmelita, le equazioni che descrivono la formazione dei neutrini sono altamente complicate, come tutte le equazioni di fisica teorica. Però effettivamente di neutrino non ne esiste solamente uno, ne esistono almeno tre, come avevamo detto all'inizio della trasmissione. Quali sono questi tipi di neutrini e soprattutto quale differenza c'è fra questi tre tipi di neutrini? Sì, ecco, i neutrini possono essere di tipo elettronico, tauonico e muonico, dove muone, tauone ed elettrone sono i tre tipi di leptoni. E possono essere di tipo Majorana o di tipo Dirac. Nel caso in cui i neutrini sono antiparticelle di se stessi, allora possono essere detti di Majorana, mentre nel caso contrario sono detti di Dirac. È molto importante fare questa differenza tra neutrini muonici, tauonici ed elettronici, proprio perché questa differenza ci permette di introdurre il discorso delle oscillazioni neutriniche e quindi arrivare poi agli attuali esperimenti che hanno messo in evidenza che i neutrini hanno massa. Ecco, su quello che hai appena detto, Carmelita, ci attacchiamo per parlare della massa dei neutrini. Tu hai appena detto che ci sono tre tipi di neutrini che sembrano una specie di scioglilingua e poi a questo punto cerchiamo di capire come si pesa il neutrino. Ovviamente non ci vuole un bilancino di precisione, ma ci sono altri metodi. Ecco, se non ricordo male, nel 1998 al Super Camio Cande venne identificata per la prima volta la massa del neutrino, cioè venne identificato che questo oggettino aveva una certa massa, un certo peso. C'è una relazione fra tipo di neutrino e tipo di neutrino? C'è un passaggio, meglio ancora, tra tipo di neutrino e tipo di neutrino che ci segnala che questa piccola particella ha una certa massa oppure no? Guarda, allora, il problema è questo, che diciamo gli autostati di massa sono diversi dagli autostati di sapore dei neutrini. Quindi un neutrino elettronico, ad esempio, è la combinazione di tre autostati di massa e del neutrino stesso, e analogamente per il neutrino muonico e tauonico. Quindi quando si dice che il neutrino ha massa è perché si è verificato che, ad esempio, un neutrino di tipo muonico si trasforma in un neutrino di tipo tauonico, e questo può accadere solo se questi tipi di sapori non sono autostati della massa, quindi il neutrino tende ad oscillare da uno stato all'altro. E per la teoria quantistica, quando il neutrino interagisce con l'osservatore, ovviamente ha una massa ben definita. Lo sai che a questo punto devi spiegarci che cosa sono gli autostati, perché sennò non si capisce quello che hai appena detto, vero? Sì, gli autostati sono appunto degli stati elementari che la particella può assumere e quindi come delle celle elementari che la particella può assumere e che però questi stati si possono combinare, come ad esempio come una combinazione lineare, dando vita allo stato totale in cui si trova la particella in quel momento. Cioè questi tre stati si possono combinare in tutti i modi dando origine a tutti gli stati possibili della particella. Non so se sono stata chiara. Sì, ovviamente sei stata chiarissima, però io mi permetto di semplificare al massimo come mio solito per chi ci sta ascoltando. È come se il signor Neutrino avesse nell'armadio tre cappotti: un cappotto di colore nero, magari per le serate un pochino più informali, un cappotto di jeans per uscire con gli amici e un cappottone di velluto per le serate un pochino più importanti. Nel momento in cui si cambia un tipo particolare di cappotto, oscilla in maniera differente. Allora, se si mette il cappotto di velluto, pesa di più. Se si mette il cappotto di jeans, pesa un pochino di meno. Se si mette il cappotto nero, pesa ancora di meno. Questo è un pochino il concetto di base del peso differente dei vari tipi di neutrini. A questo punto la domanda però che ti voglio fare è questa: perché è tanto importante capire se i neutrini hanno massa oppure no? Guarda, dal punto di vista delle particelle elementari è ovvio calcolare appunto soprattutto la differenza tra gli stati di massa, quindi il valore della massa associato ad ogni stato è importante anche per capire quella che si chiama hierarchy neutrinica. Per quanto riguarda la cosmologia è importantissimo perché essi possono contribuire anche in minima parte però alla cosiddetta dark matter e quindi alla densità totale dell'universo. Poi la formazione delle strutture cambia molto a seconda che i neutrini abbiano massa o meno. E questa formazione di strutture cosmiche viene poi misurata appunto da queste grandi sarve di galassie. Carmelita, a questo punto ti faccio l'ultima domanda della prima parte di Caccia Fotone. Noi qui al Fotone ci siamo occupati molte volte della Cosmic Microwave Background Radiation, quella specie di eco del Big Bang a 3 gradi Kelvin che si sentirebbe in tutto l'universo con le cosiddette anisotropie. Associata ai neutrini ci sarebbe la Cosmic Neutrino Background. Che cos'è questa radiazione e soprattutto come si associa ai neutrini? Ovvero la teoria del Big Bang predice che ci sia stato un plasma iniziale in cui c'erano all'interno neutrini, fotoni, positroni, elettroni. Poi con l'abbassarsi delle temperature i neutrini si sono disaccoppiati per prima da questo plasma e quindi diciamo non hanno più interagito e si sono propagati indisturbati nell'universo e questa appunto è la radiazione di fondo neutrinica che noi speriamo di poter misurare. Invece poi i fotoni hanno continuato a interagire con il plasma, quando le temperature si sono ulteriormente abbassate si sono disaccoppiati anch'essi ed rappresentano il Cosmic Microwave Background, che diciamo è quello che poi viene osservato da un grande esperimento ISA che è Planck, dalla misura delle cosiddette anisotropie nella distribuzione di questi fotoni. Ovviamente si possono dedurre tantissime, diciamo si può confermare tantissimo la teoria del Big Bang e anche per questo George Smoot ha avuto il premio Nobel. A questo punto ci fermiamo un attimo, Carmelita respira un po', ci ascoltiamo un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e nella seconda parte della trasmissione andremo ad analizzare il contenuto del paper pubblicato qualche giorno fa su Archive. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così... We'll be right back. I Wanna Be Happy, un auspicio più che una canzone, quella che avete ascoltato e che state ascoltando ancora sulla base di Cacciafotone, sempre dei Double Talk. Bentornati quindi in studio, cari ascoltatori, in questa puntata in cui ci stiamo occupando di astronomia, di cosmologia, ma meglio ancora ci stiamo occupando di neutrini, un argomento che ci piace tantissimo, come sapete, e ce ne stiamo occupando in compagnia della dottoressa Carmelita Carbone del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna. Il pretesto con cui trattiamo questo argomento è un paper pubblicato qualche giorno fa su Archive, un preprint, in cui si analizzano alcune cose particolari che andremo a spulciare meglio in questa parte. Nella prima parte della trasmissione abbiamo cercato di spiegare che cosa sono i neutrini, ma nella seconda parte analizzeremo appunto il contenuto di questo paper. Il cuore di questo paper tratta fondamentalmente di due strategie spettroscopiche, la traduco letteralmente dall'inglese, la slitless e la multislit. Andiamo però con calma, perché questo paper è un paper molto corposo di addirittura 34 pagine. Prima di tutto, Carmelita, quanto tempo ci è voluto per sviluppare tutto questo paper? Perché immagino che ce ne sia voluto tantissimo di tempo. 10 mesi, considerando che comunque ho pubblicato anche altri articoli nel frattempo, quindi sì, parecchio lavoro. Ma anche perché ho dovuto analizzare diversi approcci, non solo spettroscopici, ma diversi anche approcci, come diciamo noi, di forecasting e quindi di predizione delle misure. Quindi è stato davvero impegnativo, sì. Ecco Carmelita, a questo punto entriamo veramente nel cuore del vostro paper. Ho già accennato nella prima parte che il cuore si riferisce a due strategie spettroscopiche per l'analisi dei neutrini. Per non parlare in maniera astratta, qual è la differenza fra questi due approcci? Quali sono i vantaggi di uno rispetto all'altro? E soprattutto quale pensate di utilizzare in futuro? Sì, guarda, allora slit significa fenditura, come probabilmente tutti sanno, e lo slitless rappresenta un tipo di spettroscopia in cui noi andiamo a focalizzarci solo su alcuni tipi di galassie che hanno particolari linee di emissione, come le H alfa, e sono quelle galassie che hanno diciamo stelle in formazione o AGN all'interno. È più semplice del multislit perché appunto si focalizza solo su questo tipo di galassie. Ovviamente ha un numero minore di galassie da poter osservare, proprio perché considera solo le galassie che hanno all'interno una formazione stellare, e sono le galassie ancora piuttosto piccole, mentre il multislit ha più fenditure e quindi può osservare più tipi di galassie che emettono con diverse linee di emissione, non solo il tipo H alfa, e quindi può osservare un maggior numero di galassie, anche le più diciamo massive, quelle più vecchie, come diciamo noi, le cosiddette LRGs. E ovviamente le più massive, noi diciamo che sono le più biassate rispetto alla distribuzione di materia, rappresentano dei picchi più alti, quindi ci danno un'informazione maggiore, perché noi siamo più sensibili ai picchi più alti, l'osservazione è più sensibile ai picchi più alti. Il problema è che la tecnica per sviluppare il multislit nello spazio è molto più complessa, ci sono molti più problemi di errori sistematici, e quindi il più favorito dall'ISA è in questo caso Euclid, la survey Euclid, che è appunto una survey di tipo slitless. Carmelita, a questo punto ti faccio una domanda che potrà sembrarti anche banale, forse no. Ok, i due metodi spettroscopici studiano diversi tipi di galassie, ma che relazione c'è con i neutrini? I neutrini in fondo non sono sempre gli stessi. Ecco, sì, guarda, il punto è che i neutrini, diciamo, influenzano la formazione di strutture, giusto? Quindi senza neutrini, oppure con neutrini che hanno massa nulla, o una certa distribuzione di galassie, una certa ampiezza, diciamo, nella distribuzione di galassie, e una certa correlazione tra le galassie. E con i neutrini questa cambia, perché i neutrini massivi, avendo velocità molto vicine a quelle della luce, producono una specie di pressione che si oppone al collasso gravitazionale, appunto, che sta alla base della formazione delle strutture cosmiche, per cui la formazione di strutture in un certo senso viene rallentata o soppressa. Ora, l'osservazione di questa distribuzione di galassie mi dà informazione appunto sulla formazione di strutture. Ora, più galassie io vedo, oppure più queste galassie mi danno maggiore sensibilità nella misura, più io posso ottenere, diciamo, informazione rispetto al rumore statistico. Meno galassie io vedo, o meno biasate sono queste galassie, meno è la mia informazione. Quindi io posso dire che i due approcci si basano appunto sulla formazione di strutture e sul tipo di galassie che io vedo che danno maggiore sensibilità. A questo punto continuiamo con la trasmissione, continuiamo con la nostra domanda grafica, non ce la perdiamo neanche questa settimana. L'invito è per tutti gli ascoltatori di Caccia e Fotone ad andare sul sito www.cacciafotone.it, cliccare sull'immagine riportata nel nostro post, si aprirà un'immagine un pochino più grande, quell'immagine è quella che andremo a discutere. Quell'immagine è riportata a pagina 3 del paper pubblicato su Archive e, come potete vedere, in ascissa abbiamo l'energia e in ordinata abbiamo la massa. Di cosa? Dei neutrini. Carmelita, a questo punto di nuovo a te la parola. Che cosa rappresenta questo grafico? Soprattutto che cosa rappresentano le bande e cosa rappresentano queste linee grigie che sfociano in una sezione denominata Excluded by Cosmology? Sì, ascolta, allora qui c'è in ordinata abbiamo il mass splitting, ovvero la differenza tra gli autostati di massa del neutrino, quindi diciamo M1, M2, M3. E in ascissa abbiamo la somma dei tre autostati totali, quindi M1 più M2 più M3, che è quella che la cosmologia riesce a misurare con molta maggior sensibilità rispetto a quello che possono fare gli esperimenti di particelle. C'è un recente paper di Overlaf che ha analizzato lo Sloan Digital Sky Survey e da questa survey lui ha vincolato che la massa del neutrino non può andare, diciamo, oltre la massa totale, non può andare oltre i 0,28 elettronvolt, quindi in un certo senso 0,3 elettronvolt, e quindi c'è una linea punteggiata che rappresenta quest'area oltre la quale la cosmologia già esclude una possibile massa del neutrino, ad esempio di un elettronvolt, come si pensava nel passato. Poi, andando verso l'origine del sistema di riferimento, l'origine del grafico, vediamo che ci sono delle bande, una più azzurra più scura e l'altra più chiara, e dei triangolini rossi. Ora, questi triangolini rossi sono i cosiddetti rappresentano i cosiddetti modelli fiduciali per la massa del neutrino che io ho preso in considerazione. Quindi ho considerato, supposto che ad esempio la massa del neutrino sia quella minima predetta dalla teoria delle oscillazioni neutriniche, quindi 0,05 elettronvolt, e io ho visto con quale accuratezza, ho previsto con quale accuratezza ad esempio Euclid può misurare questa massa. Se è sensibile, perché può essere che la massa sia così piccola che lo strumento non riesce a rivelarla. Invece Euclid può misurarla, però sotto l'ipotesi che l'universo sia il cosiddetto lambda CDM, ovvero che sia composto da una dark energy che sia costante cosmologica e più la cold dark matter ed ovviamente i barioni. Nel caso in cui l'universo sia molto più generale, quindi lo spazio non sia più piatto, che la dark energy non sia costante cosmologica ma abbia un'equazione di stato che si evolve nel tempo, Euclid, diciamo, può misurare la massa del neutrino solo se questa massa sta tra e superiore, diciamo, a 0,1 elettronvolt, quindi sta tra 0,1 elettronvolt e 0,3 elettronvolt, che è il limite attuale, e le bande grigie e le linee nere rappresentano le cosiddette inverted e normal hierarchies delle masse neutriniche. Quindi la linea nera è l'andamento della hierarchy in funzione funzione della massa del neutrino, mentre le bande grigie rappresentano gli errori dati dalle oscillazioni neutriniche detettate dai rivelatori di particella, come Opera, che nel maggio del 2010 ha messo in evidenza per la prima volta la trasformazione da neutrini di tipo mu, neutrini muonici, in neutrini di tipo tau. Carmelita, prima di lasciarci con un pezzo musicale, poi andare sulla coda con l'ultima domanda della trasmissione, ti voglio chiedere di dire due parole su Euclid, visto che probabilmente è lo strumento che utilizzerete per fare le vostre analisi. Sì, allora Euclid, come spiegavo prima, è di tipo slitless, quindi è più facile da implementare soprattutto nello spazio ed è stato già selezionato dalla European Space Agency e ci siamo concentrati su questo perché diciamo è più probabile che sia lanciato a breve. Ci sono proposal per gli altri strumenti, ma diciamo non a breve termine, ecco. A questo punto al via l'ultimo pezzo musicale, poi torneremo in studio e sulla coda dell'ultimo pezzo musicale ti farò l'ultima domanda, che è la domanda tra virgolette più personale della trasmissione. A dopo. Grande ciao. I don't need this telephone line. I don't need this camera action. I don't need this the way you change your mind. The infatuation's over. It's love or nothing. The infatuation's over. I can't be like this forever. E allora siamo in coda di Calcio Fotone, siamo negli ultimi istanti di Calcio Fotone, l'ultimo minuto, siamo sempre in collegamento via Skype con la dottoressa Carmelita Carbone del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna. E allora l'ultima domanda, la domanda che cordialmente abbiamo definito la domanda zainetto. Carmelita, se dovessi ricordare una sola cosa fra quelle che hai vissuto dal momento in cui questa ricerca è cominciata, al momento in cui è finita, al momento in cui questa ricerca è stata pubblicata su Archive, quale delle tante cose ricorderesti e porterai nel cuore, o meglio metterai nel tuo zainetto da ricercatrice per portarti dietro nel corso del tempo futuro? Sì, quello che mi ha più emozionato, prima di tutto, voglio dire, questo esperimento Euclid, di cui il professor Cimatti è uno dei rappresentanti italiani, si rivolge soprattutto allo studio della dark energy attraverso le Baryonic Acoustic Oscillation. E queste Baryonic Acoustic Oscillation sono state scoperte da pochissimo e sono l'ulteriore conferma che la teoria del Big Bang è una buona teoria per descrivere l'universo. E sono appunto le compagne delle anisotropie del fondo cosmico di microonde. Quindi lo studio di queste oscillazioni attraverso le quali io riesco a dare dei vincoli sulla massa totale dei neutrini massivi è qualcosa che mi emoziona tantissimo, perché è la conferma che la teoria della cosmologia funziona, che buona parte della relatività generale funziona, anche se ovviamente ci sono dei problemi nello spiegare la densità totale dell'universo, i problemi nel capire cos'è la dark matter, cosa sia la dark energy. Sì, questo è quello che più mi ha emozionato. Carmelita, con quest'ultima tua risposta si conclude l'ultima puntata annuale di Cacciafotone, la puntata numero 179. L'appuntamento è alla puntata 180, alla seconda settimana di gennaio 2011. L'augurio è, come al solito, di buona scienza a tutti, ma siamo anche a fine anno e quindi il Fotone vi fa anche un augurio di buone feste. Mi raccomando, studiate e non vi fate trovare impreparati da Babbo Natale. Ciao!